L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Buon pomeriggio a tutti, rieccoci qua, io sono Achille Corea, questa è l'Italia vista dallo spazio, lunedì 27 agosto, ultima settimana per il nostro programma che cerca ogni giorno di trovare qualcosa da salvare dell'Italia per arrivare alla fine a 24 oggetti simbolo dell'Italia da infilare in un'astronave spaziale virtuale e da lanciare nello spazio in nostra rappresentanza. Siamo quasi alla fine, abbiamo 19 posti su 24 e già impegnati, c'è dentro un po' di tutto, da una teglia di parmigiana di melanzane a un CD con il rumore del motore della vecchia 500, da una copia della Divina Commedia a una stecca di biliardino, insomma si forma un quadro di cui poi parleremo nell'ultima puntata, ma io l'Italia un pochino ce la vedo in questo elenco. Che cosa vorrei mandare oggi? Che cosa vorrei infilare oggi nello scompartimento numero 21? Ci vorrei mettere un programma televisivo. So che è un momento in cui la televisione magari non è nel suo massimo splendore e cresce il partito di quelli che dicono io la televisione non ce l'ho, non la vedo ormai la televisione, però la televisione ha fatto parte della storia di questo paese, coinvolge ancora milioni di telespettatori e ha una sua influenza. Guardate i giornali, ogni giorno ci sono pagine che nascono da polemiche o notizie che derivano dalla televisione, anche insomma tutti quelli che dicono ma ormai io mi informo su internet, guardo solo internet, andate su internet, fateci caso, andate su YouTube e vedrete che alcuni dei video più visti del giorno sono sempre spezzoni di televisione, di un programma recente, magari di un programma della sera prima. Andate soprattutto durante l'inverno su Twitter, guardate i trending topic, cioè quelle paroline in basso a sinistra che sono le parole più usate del giorno, e state tranquilli che il martedì ci troverete Ballarò, il giovedì ci troverete il programma di Santoro o ospiti o dichiarazioni che sono uscite da quei programmi. Quindi la verità è questa, nel bene o nel male la televisione ci rappresenta. Ditemi voi che programma televisivo mandereste in rappresentanza dell'Italia, di ieri o di oggi, a vostra scelta, chiamandoci all'800 24 00 24. Posto numero 20, in attesa di assegnazione. E prima di iniziare insomma con l'argomento di oggi devo ancora assegnare il posto di venerdì. Venerdì abbiamo parlato di fumetti, c'è stata una grossa partecipazione devo dire, non solo in diretta ma anche poi su Facebook e su Twitter. Abbiamo capito che i fumetti italiani riescono a raccontare comunque qualcosa del carattere dell'Italia anche se sono ambientati, soprattutto forse se sono ambientati in altri posti. Succede ad esempio con Diabolik, che avete segnalato in diversi, che insomma vive e opera e ruba a Clerville, con Alan Ford del gruppo TNT, anche quello molto segnalato, che fa base a New York, e succede con quello che poi ha vinto il fumetto più votato, che è un personaggio, un fumetto inventato in Italia che però viveva nel lontano West. Forse avete già capito che parliamo di Tex Willer, e mi piace pensare che il posto 19 è stato occupato dalla camicia rossa dei Garibaldini, il posto 20 dalla camicia gialla con la stella di Ranger del Texas di Tex Willer. Posto numero 20 assegnato. Televisione, televisione, chi è il più bello del rione? Televisione, televisione, fammi vincere un milione. 800 24 00 24, per dirci quale programma lancereste nello spazio, quale programma televisivo o quale lascereste fuori, insomma anche quella è una scelta interessante che dice qualcosa di come vedete l'Italia e come vedete la televisione italiana. Il nostro primo ospite se ne occupa insomma molto spesso perché conduce un programma su Rai 3 che credo stia per ripartire nel mese di settembre, dedicato proprio alla televisione, ai programmi televisivi e all'analisi di quella che è la televisione italiana. È con noi Massimo Bernardini, benvenuto. Buon pomeriggio, eccomi qua. Ecco, come potevamo non chiamarti, per insomma, visto che con TV Talk la televisione la passate proprio al microscopio e soprattutto passate insomma quello che è un po' l'effetto poi dei programmi televisivi, il modo in cui vengono visti e reagiscono gli italiani. Sì, ma infatti io continuo a pensare che nonostante TV Talk ormai, poi nella prima versione Grande Talk, insomma arriviamo ormai al 12° anno, in realtà è ancora appassionante come programma, almeno per chi lo fa come me, perché un paese come l'Italia è completamente intrecciato dentro la propria televisione, e quindi parlare di televisione in realtà vuol dire parlare dell'Italia, del nostro paese. Ed è per questo, sì. Ed è per questo che oggi vogliamo mandare un programma televisivo. Poi c'è veramente un grande dibattito intorno alla televisione. Io poi vedo nel programma, ma non solo nel programma, anche su internet, ad esempio, ho scoperto su molti blog, proprio un'attenzione grandissima per le curve d'ascolto. Si dibatte di numeri, come si parlava una volta al bar di calciatori, di diagonali difensive. Sì. C'è veramente grande interesse. Questa è anche una nostra malattia, è molto tipica italiana, nel senso che io una cosa che ripeto spesso e che vedo colpisce l'uditorio non televisivo quando io ne parlo, è che l'America, che è il paese televisivo consumista per antonomasia, pubblica i dati d'ascolto una volta alla settimana, e noi li usiamo tutti i giorni con il giudizio di Dio. Già questo dà l'idea di che strano paese appassionato alla televisione e ai suoi numeri siamo, insomma. E Massimo, qual è il programma che invece hai scelto per noi? Allora, io ho dibattuto dentro me stesso con tre programmi a lungo, e questi tre programmi sono da una parte Studio 1, dall'altra TV7, però poi devo dire che ne ho scelto un altro che è imparentato con TV7, perché c'è di mezzo Sergio Zavoli, ed è La Notte della Repubblica, perché tutto sommato credo che sia il programma che più sia stato capace di attraversare e di raccontare e di mettere a fuoco forse il periodo più complicato, almeno del dopoguerra, insomma, cioè che sono gli anni del terrorismo. Ecco, credo che Zavoli con quel programma abbia proprio messo a fuoco con una verità e con una drammaticità quel momento come forse nessun altro programma televisivo italiano ha fatto fino adesso. Stiamo parlando di un programma che tra l'89 e il 90, se non sbaglio, con 20 puntate, ha raccontato anche alcuni momenti drammatici. Io devo chiederti una cosa, perché io vedo spesso anche questi programmi, che soprattutto d'estate, ma insomma mi fa piacere, ripropongono vecchie cose della televisione italiana, e a volte mentre riguardo ho l'impressione che certe cose non le farebbero più passare. Non so se è un'impressione fallace. Un programma come questo lo farebbero oggi? Secondo me la prima domanda è: sarebbero capaci di farlo oggi? Ci sarebbe un Sergio Zavoli in grado di, a parte che vivo Vegeto ed è anche responsabile della commissione di vigilanza Rai, ma voglio dire, questa è la vera domanda. Ecco, su questo ho molti dubbi, cioè che ci siano dentro il tessuto televisivo italiano giornalisti che abbiano insieme il peso, come dire, culturale anche di Sergio Zavoli e anche il suo stile televisivo, che magari uno può anche vedere oggi come invecchiato, ma secondo me è comunque uno stile importante, forse, insomma, non mi vengono in mente tanto. Ci sono dei grandi giornalisti sicuramente nella televisione italiana oggi, ma di quel peso e con quel progetto, cioè l'idea di segnare in qualche modo la storia del nostro paese con un programma televisivo. Ecco, questa ambizione secondo me non c'è più. Massimo, prima di salutarti ti chiedo risposta secca, perché non saprei a chi altro chiederlo, ma quanti ascoltatori farebbe oggi La Notte della Repubblica? Ma guarda, è anche abbastanza facile da fare, perché è stato rimandato almeno 5-6 anni fa, è stato rimandato e ne ha fatti pochi. A suo tempo non ne fece una cosa enorme, insomma, però insomma erano anche il momento in cui la televisione della lista era ancora molto molto importante. Io credo ne farebbe pochi, e infatti secondo me forse andrebbe la pena rimandarlo, ma impaginato, forse rinnovato, forse in qualche modo tradotto nella lingua televisiva di oggi, e allora forse. Va bene, con questo forse io saluto Massimo Bernardini. Quando ricomincia TV Talk? 22 settembre. Su Rai 3. Grazie a Massimo Bernardini. Grazie, per essere buon stato. Lavoro. Grazie. 800 24 00 24 per parlare con noi. E questa è già la sigla, io ho un po' timore, già la sigla della Notte della Repubblica, già io temo che effetto potrebbe fare sul pubblico di oggi. Un ascoltatore velocissimo, Antonio da Cuneo, pronto? Salve. Qual è la scelta di Antonio da Cuneo? Vabbè, da Antonio da Cuneo arriva una scelta abbastanza banale, forse, Super Quark. Quanti anni hai, Antonio? ho 27. Oppure un'altra scelta, invece un programma che toglierai proprio, anche se era molto bello, era Colpo Grosso. Questo io non sono d'accordo. Comunque grazie ad Antonio da Cuneo, Super Quark è la sua scelta. Io sto vedendo i messaggi che arrivano sia da Twitter, dove il nostro hashtag è cancelletto dallo spazio, sia gli SMS al 349-238-6666. Ci sono nostalgie di diverse generazioni, non che la cosa mi stupisca, non credo che stupisca nemmeno una giornalista che scrive di televisione, anche se non solo di televisione, per Didi Repubblica. Guia Soncini, benvenuta. Tu lo sai che questa tua ultima settimana di trasmissione si colloca in un'importantissima settimana di transizione. Tra cosa? Fra il momento in cui hanno ricominciato a mandare Beautiful 100 vetrine e il momento in cui ricominceranno a mandare Uomini e Donne. Beh, questo io non ero aggiornato. Vedi, mi sei impreparato sulle cose importanti. Lo so, purtroppo qui non me lo fanno vedere in studio Uomini e Donne. Credo che ci siano gli estremi per una denuncia ad Amnesty. Ci proverò, perché comunque una denuncia non si nega mai a nessuno. Guia, ti stupisce la nostalgia di vario tipo, da Carosello alla TV della Dandini degli anni 90 che ci segnalano i telespettatori? No, ma credo che siano due nostalgie diverse, cioè la nostalgia della TV degli anni 90 è quella cosa che le persone colte chiamano retromania, da un saggio inglese dell'anno scorso che ha codificato il nostro trovare sempre molto belle le cose che andavano in onda quando eravamo giovani e i consumi culturali che esistevano quando noi eravamo splendenti. E la nostalgia di Carosello invece è la stessa per cui Bernardini sceglie Zavoli o il tuo ascoltatore sceglie Super Quark, la presentabilità sociale, cioè la stessa ragione per cui ai sondaggi nessuno diceva di votare Forza Italia, poi Forza Italia vinceva le elezioni. Quello che diciamo che ci piace è sempre molto diverso da quello che ci piace davvero, no? Beh sì, anche se in realtà non lo so se poi la gente non chiama per dire, cioè se guardano Uomini e Donne davvero non chiamano per dirlo, io me lo chiedo sempre. Non chiamano per dire che vogliono che dire che quello è il programma migliore della storia, perché sanno anche loro che non è vero, tu sai benissimo che c'è un'espressione inglese che si traduce alla lettera con piacere colpevole, cioè sono quelle cose che ti piacciono ma te ne vergogno, sono sicura che Bernardini guarda C'è Posta per Te. Glielo richiederemo alla prossima occasione. Adesso telefona e dice che è un ascoltatore. Probabilmente sì, dirà che è Massimo da Milano, se non gli viene in mente un altro nome al volo, ma lì lo sgameremo subito. E ti devo chiedere qual è il programma che hai scelto per noi e la motivazione. Allora, il programma è Non è la RAI, la motivazione è in tre parti, ma giuro che sarò breve, di a quelli della regione di non suicidarsi di fronte a questo annuncio. La prima parte è che negli anni 90 c'era un telefilm in America che si chiamava Seinfeld, che in Italia non ha visto quasi nessuno, andò in onda per Monte Carlo, ma fu un telefilm di successo clamoroso, ed era, nella sintesi che ne venne data all'epoca, A Show About Nothing, un programma che parlava di niente, perché le trame erano fatte di niente, erano loro che aspettavano un tavolo in un ristorante, loro che cercavano la macchina in un parcheggio. Ora tu capisci che un programma fatto di niente è un programma difficilissimo, perché è un programma d'atmosfera, è un programma che non guardi perché ci sono i premi o perché c'è il cantante famoso. Ecco, Non è la RAI era così, il programma più difficile del mondo da fare, un programma non sintetizzabile, un programma senza trama. La seconda ragione è che Non è la RAI ha formato la classe dirigente di oggi, cioè se tu vai a guardare tutte quelle che stanno in televisione e che ci stanno da prima del Grande Fratello, che ha generato la seconda ondata di vallette conduttrici, erano tutte Non è la RAI, dalle attrici di fiction alle fidanzate dei calciatori alle conduttrici, vengono tutte da lì, è stata le frattocchie della televisione italiana. Le frattocchie, diciamo che cos'è, perché non tutti magari lo sanno. Le frattocchie era la scuola di formazione dei dirigenti del PC, quando la politica era una cosa seria. Guia, ti devo chiedere, perché mi incombe la viabilità, il terzo motivo per cui il programma da salvare. Boncompagni è un gigante del pensiero e dell'azione, è un genio assoluto, è l'uomo che ha inventato lo slogan presto e male per definire come si fa la televisione, che è la frase più italiana che sia mai stata coniata, e io non mi faccio una ragione del fatto che fra i due passi Arbore per essere il genio. Grazie a Guia Soncini, il programma da salvare per lei Non è la RAI, l'hai detto anche sinteticamente, ci sei riuscita, grazie per essere stata con noi. Il cielo sempre blu. non avrei mai chiamato per Non è la Rai, ma non è per snobismo, è perché all'epoca Non è la Rai facevo la radio locale, e per lo stesso motivo per cui quest'estate non ho guardato Beautiful come mi si faceva notare prima. Gli sms al 349-238-6666, varie forme di nostalgia anche qui. Piero da Vicenza dice Super Gulp, ci siamo dimenticati di Indietro Tutta con Arbore. No, Indietro Tutta è uno dei primi programmi che è stato nominato, devo dire, anche su Twitter e su Facebook, però ci sono anche dei voti per dei programmi nuovi, e sia Michele su nostri sms al 349-238-6666, sia un'ascoltatrice che però adesso, scusatemi, non ritrovo su Facebook, dicono SOS Tata, che è un programma, diciamo, che va sul digitale terrestre e insomma insegna i bambini a comportarsi, in estrema sintesi. E Maria Olga da Bologna, benvenuta. Buonasera. Che programma votiamo? Io voterei il Festival di Sanremo. Ah beh, stiamo andando, non so, forse Guia Soncini è servita a farci andare un po' di più sul Nazional Popolare. Perché? Sì, perché comunque un programma che c'è sempre stato da quando è arrivata la televisione in Italia, ha raccontato un po' l'Italia del momento nel corso di tutti questi anni, da Grazia dei Fior, il periodo un po' della spensieratezza. Maria Olga, lo racconta il Sanremo di adesso? Racconta l'Italia di adesso? Ma sì, penso per esempio alla canzone dei Vecchioni di qualche anno fa, o all'ultima canzone di Emma, un po' racconta, tra virgolette, la quindi crisi. Più una questione di canzoni però che di conduttori e di evento televisivo. Va bene, Maria Olga da Bologna sceglie Sanremo. Alessandro da Salerno, pronto? C'è Alessandro? No, Alessandro da Salerno non c'è, e quindi vado da Roberto da Brescia, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Che programma scegliamo? Ma qualcosa di Santoro, insomma. Perché qualcosa di Santoro? Qual è il motivo? Perché c'è poco in televisione, c'è solo una grande ipocrisia, che purtroppo, scusi, dico la mia, anche i giornalisti oramai fanno l'ambiente, i media fanno questo, lo fanno un poco per loro. E però che cosa ha il programma, cosa hanno i programmi di Santoro più degli altri? Ma no, forse sono un po' meno ipocriti. Un po' meno ipocriti. Va bene, io ringrazio Roberto da Brescia e vado sul nostro terzo ospite, che in realtà di talk show se ne intende abbastanza, perché nel programma Agorà su Rai 3, diciamo, gestisce uno spazio abbastanza particolare, che è la moviola dei talk show, cioè lui è costretto per lavoro a vedere i talk show, magari anche un suo piacere, e poi a riproporci momenti cult. È un giornalista, un autore TV, è con noi Antonio Sofi, benvenuto. Benvenuti, ciao. Ciao Antonio, intanto è dura guardare i talk show italiani? Infatti il piacere è limitato, insomma. Poi il talk show in realtà poi è la grande mamma catodica della televisione italiana, è la ciambella di salvataggio a cui ci attacchiamo, perché alla fine salva sempre un pochino tutto, no? Cioè il canovaccio che alla fine ha raccontato spesso la politica degli ultimi anni, e lo ha fatto con un format che insieme è rassicurante, spesso sempre lo stesso, insomma. Alla fine c'è il bello dei talk show, che si somigliano un po' tutti, allora vai a cercare le differenze come nella settimana enigmistica. È bella questa delle piccole differenze, ma non c'è, io ho l'impressione che però ci siano delle differenze molto più facili da trovare che nella settimana enigmistica. Forse, come diceva Guia, il talk show è un genere talmente semplice nella sua realizzazione, che poi si vede, se mi passate il gergale, il manico, si vede la capacità di chi lo conduce. Ecco, non sapevo che aveva detto questo, perché non ho sentito, ma sono d'accordo, però è questo il senso. Cioè lei lo diceva riguardo a Non è la Rai, te lo dico. Okay, allora è una cosa diversa. Però alla fine il talk show è mettere intorno a un tavolo più o meno vero, virtuale, delle persone e farle parlare. Quindi la format è forse la televisione allo stato puro, allo stato brado. È certo che però poi, come tutti i canovacci, c'è chi lo sa interpretare meglio e chi no. Antonio, che programma invece scegli per la nostra astronave virtuale? Che programma lanciamo nello spazio? Io lancerei un classico che però continua ad essere moderno, che è Blob, perché alla fine la televisione mangia se stessa, e Blob la mastica ogni giorno, la risputa e ce la fa quasi diventare bella. la modifica, la cambia. E poi tra l'altro Blob ha anche un po' di figli, se vogliamo, alla fine è diventato anche un genere. Sì, perché per esempio a me non dispiacciono nemmeno tutti quegli epigoni un po' più pop, come quest'estate un programma, poi cambiano ogni anno, ma quest'estate si chiamava Te. Sì, quello che gli altri anni era Dada Umpa, lo citavamo anche prima, perché poi uno dice, la televisione di una volta, la nostalgia, dobbiamo eliminare questa nostalgia. Poi uno però si ferma lì e c'è Mina e Totò a Studio 1, c'è Gianni Morandi in 10 programmi diversi e se lo guarda. Ma lì il divertimento è come anche in Blob, è quello del collage, no? Del mettere insieme le cose e trovare anche degli abbinamenti sorprendenti. È il modo attraverso cui la televisione prova a riscoprirsi sorprendente, quando spesso sorprendente purtroppo non lo è. Ok, io ringrazio Antonio Sofi, riparte anche Agorà a breve? Sì, il 24 settembre, ripartiamo come al solito dalle 8 alle 10 ogni mattina. Va bene, allora grazie Antonio Sofi per essere stato con noi e per aver scelto Blob. Non c'è nessuno, tranne noi mostri. Oggi sigle inquietanti, dalle scelte dei nostri ospiti, alla fine quella più, diciamo, gradevole era non è la Rai, ma magari sul programma si può dire qualsiasi cosa. I nostri ascoltatori, volevo recuperare Alessandro da Salerno, se c'è, pronto? Ciao, buonasera. Alessandro da Salerno, età, dichiariamo l'età. 33 anni. E il programma da salvare è? Il programma da salvare è Indietro Tutta, con buona pace di Guia Soncini, che non considera Arbore geniale, però quanto buon compagni. Alessandro, scusa, quanti anni avevi quando è andato in onda Indietro Tutta? Quando hanno mandato Indietro Tutti, sono del 75, era l'87, credo, avevo 12 anni, insomma. Ma è stata, quando hai chiesto di citare una trasmissione televisiva, le prime immagini che mi sono venute alla mente sono state in realtà due, quelle di Indietro Tutta e quelle di un'altra trasmissione che, se mi consentite di aggiungere, Il Grande Gioco dell'Oca. Il Grande Gioco, beh, questa mai me la sarei ricordata. Alessandro, però ti chiedo una cosa, rispondimi secco, l'hai mai rivista Indietro Tutta? Indietro Tutta sì, grazie alle teche della Rai, sì. Va bene, no, era questa la domanda, perché a volte mi chiedo, intanto ti ringrazio e vado da Luca da Modena, perché io mi chiedo sempre se poi questi programmi li rivediamo, perché a me a volte capita, proprio nella loro interezza, e devo dire che sempre me li ricordavo diversi. Luca da Modena, che programma ha scelto? Ciao, io sceglierei Il 90° Minuto. Ecco, 90° Minuto è un'altra cosa che ho rivisto, perché quest'estate, non so se lo facevano anche prima, lo ridanno sui canali tipo Rai Sport del digitale terrestre e mi sembrava venisse da un altro mondo. A te è capitato di rivederlo? Ma guarda, io è un po' che non lo rivedo. Premetto, io non sono un appassionato di calcio, però credo che Il 90° Minuto abbia rappresentato un programma che come pochi è riuscito a scandire la vita del paese, nel senso che più o meno dappertutto, dal nord al sud, a quell'ora lì, alle 6 o qualcosa del genere della domenica, tutto il paese, che fosse in piazza, che fosse in casa, che fosse allo stadio, più o meno risuonava di quella musichetta. No, in apertura del programma. Sì, non le chiedo di accennarla, però insomma abbiamo capito. Grazie Luca da Modena, che ci ricorda effettivamente una cosa che manca alla televisione attuale, cioè il vederla tutti insieme in un determinato momento. Io ringrazio Valerio Rocchetti per la parte tecnica, ringrazio Antonella Migliaccio, ringrazio Neil Armstrong, che è mancato l'altro giorno, e senza di lui, senza quelli come lui, questo programma non ci sarebbe mai venuto in mente. Continuate a votarci su Facebook alla pagina Italia Vista dallo Spazio. Noi torniamo domani alle 16:30. Posto numero 21, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a italiavistadallospazio@radio24.it.